Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Scegliere è difficile, scegliere bene lo è ancora di più, ma voi, cari amici, una buona scelta l'avete già fatta, complimenti. Farò il possibile perché voi non ve ne pentiate. Scegli una porta. Una qualsiasi. Oh, mi aiuti, mi serve un indizio. Cosa devo fare adesso e come devo scegliere? Un giorno Alice arrivò a un bivio della strada e vide lo stregatto. Quale strada devo prendere? Gli chiese. Dove vuoi andare? Fu la risposta. Non lo so, ribatté Alice. E lo stregatto, non ha importanza. Non ho ancora capito. Non è complicato, non puoi restare nel vicolo per sempre. Devi scegliere. Ma come? Insomma, come devo scegliere? Tu quale preferisci? Onestamente, non lo so. A volte basta una porta a metterci in difficoltà, spesso di fronte anche a delle scelte banali, semplici, apparentemente semplici, siamo indecisi, non sappiamo che pesci pigliare. Eppure dovremmo essere abbastanza allenati, mi dico io, perché siamo sempre chiamati a scegliere, a decidere se fare o non fare, come fare. E tutti noi sappiamo bene che anche le piccole scelte possono cambiarci la vita. Vi siete mai chiesti cosa poteva accadere? Sarebbe andata diversamente se aveste preso il treno invece di perderlo? Di quanto sarebbe cambiata la vostra vita se foste arrivati 10 minuti prima invece di 10 minuti più tardi? Alan, se solo avessi preso quel treno sarei tornata secoli fa. Oh, molto meglio non porsi mai domande di questo genere. Ora, la vita di Alan sta per avviarsi su due binari diversi. Gwyneth Paltrow. Nella storia di una donna. Sliding Doors, l'avete visto, è un film di qualche anno fa, direi un doppio film, che racconta un po' come quello che noi spesso ci chiediamo, no? Quante volte ci siamo trovati a pensare che cosa sarebbe stato di noi se le cose non fossero andate in un determinato modo, se avessimo deciso di fare una cosa invece che un'altra, di prendere il treno invece che non prenderlo, di andare a trovare un'amica invece che non andarla a trovare. Insomma, un doppio film molto interessante, e magari ve lo consiglio proprio quando siete presi da indecisioni e dubbi, un po' di film terapia. E intanto a voi chiedo, c'è una decisione che ha cambiato la vita? State per prenderne una che vi dà del filo da torcere? Non esitate, non siate indecisi, chiamateci 800 24 00 24, fate insomma la scelta giusta. Quando si prende una decisione, in realtà si comincia a scivolare in una forte corrente che ti porta verso un luogo mai neppure sognato al momento di decidere. Paolo Coelho. Insomma, cari amici, decidere è un comportamento che vi viene naturale o che vi ingabbia. Pensate a stamattina, avete fatto delle scelte in automatico e delle scelte più ragionate. Come andate? Avete usato, come si dice, la pancia o la testa e siete soddisfatti? 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde. In linea con noi abbiamo il professor Giampaolo Perna, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto d'Albese Concassano e professore all'Università di Maastricht in Olanda, Università di Miami. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e tutti gli ascoltatori. Qua in studio con me ho il professor Paolo Cavedini, psichiatra, docente del Master di Neuropsicologia e Neuropsichiatria dell'Università LUMSA di Roma. Buongiorno anche a lei, grazie. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. A proposito, lei ha scelto di venire qua in studio. Vedo. Allora, iniziamo a ragionare su questa parola, la scelta, o se vogliamo decidere, professor Perna. Ma innanzitutto ognuno di noi deve riflettere con attenzione su quanto il nostro corpo ci aiuta a decidere, perché spesso il nostro stomaco in qualche maniera ci dà un suggerimento importante. E l'altra cosa è quanto il pensare con grande attenzione alle scelte ci aiuti davvero. Professor Cavedini, pancia o testa? Detta così sembra testa o croce, ma a pensarci bene il testo croce potrebbe essere una terza strada. Sì, ci sono tanti modi con cui decidiamo. Innanzitutto dobbiamo provare a chiederci se ci prendiamo abbastanza tempo per decidere, se riflettiamo sulle decisioni e se in qualche modo le nostre decisioni consentono a tutti i nostri pensieri di maturare e di decantare con la giusta attenzione. La seconda cosa è valutare con molta attenzione se le nostre decisioni cerchiamo il compromesso o se invece amiamo rischiare. Questo credo che sia una prima riflessione che ci consente di conoscere il modo con cui decidiamo. Professor Perna, a volte a metterci in difficoltà non sono le grandi decisioni, ma le piccole scelte quotidiane. Il vestito da indossare, la strada da fare, l'appuntamento da prendere o spostare. E questo, andiamo a toccare un punto importante, che talvolta la nostra ansia di base può portarci ad avere dei dubbi anche su delle cose che sembrano essere banali e che poi di fatto ci tolgono molto tempo. C'è anche da dire che ci sono delle scelte anche semplici, quali come vestirsi, che però possono avere un peso molto importante nella quotidianità della persona, sia per le persone che ci troviamo ad affrontare, sia per il senso di sicurezza che generano il fatto di sentirci a nostro agio. Quindi spesso noi dedichiamo molto tempo a sentirci a nostro agio, a capire che cosa ci fa sentire più a nostro agio possibile. E poi ci sono delle persone, professor Cavedini, che sembrano assolutamente decise in alcuni settori della loro vita, ad esempio molto nel lavoro, e invece sono indecise, sono sottentenna in altri, ad esempio con l'educazione dei figli, nel rapporto con gli amici, nella scelta dello stile che devono adottare, nella scelta del loro stile di vita. Quindi non ci sono proprio delle persone decise al 100% o indecise, si intrecciano le due dimensioni. Sì, anche perché Nicoletta, la capacità di ogni individuo è quella di saper scegliere nel modo giusto a seconda della situazione. Chiarirsi bene che cosa ci fa star bene è il primo passo, e non sempre questo viene facile. Di conseguenza tante volte siamo molto più portati a concentrarci sulle decisioni complesse, quelle cruciali della nostra vita, ma poi ci perdiamo, come si suol dire, in un bicchiere d'acqua di fronte alle prime situazioni della vita di tutti i giorni. Anche perché ci sono delle scelte che noi rimandiamo e noi sapremo già che cosa dovremmo fare, no? Fai solo un po' di ginnastica per rafforzare i bicipiti, tonificare i deltoidi, inverno cosci e cruditi. Andiamo a fare l'aerobica, balliamo a tempo di musica, facciamo volta per rullare. Sappiamo, dobbiamo fare un po' di ginnastica, muoverci, tutti sappiamo che la sedentarietà non ci fa bene, ma prendere la decisione di uscire, soprattutto quando fa freddo, e andare a correre, oppure di andare in palestra, o anche di restare in casa e fare due pedalate sulla cyclette, beh, insomma, è più facile rimandarla che affrontarla di petto. Ma in linea con noi abbiamo il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese, che magari ci aiuta a scegliere o a non scegliere, a fare altro. Insomma, dottor Confalonieri, intanto buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Che facciamo? Sappiamo che dovrebbe essere una scelta quasi obbligata, però ci sono tante scappatoie. Nel grande tema delle scelte, è una delle scelte forse più difficili. Io inizialmente darei due consigli fondamentali. Innanzitutto scegliere se fare un'attività sportiva e quale attività sportiva fare, non sulla base dell'emozione del momento, dell'esigenza del momento. Quindi lasciarla sedimentare, e se dopo qualche mese comunque avvertiamo ancora la necessità, il desiderio, l'urgenza di metterci a fare sport, di cambiare tipo di attività, allora scegliere. Sì. Però non è una scelta che si può fare sulla base dell'emozione del momento, assolutamente. Mm. E il secondo consiglio così iniziale che darei è sicuramente quello di mettere come primo criterio di scelta la comodità, o meglio la compatibilità di quello che scegliamo di fare con quella che è l'organizzazione della nostra vita, perché poi alla fine sarà l'elemento fondamentale per dare continuità alla nostra scelta. Dottor Confalonieri, per quando noi andiamo a visitare una palestra e abbiamo deciso di iscriverci in palestra, ci dà due dritte per scegliere quella che va bene per noi? Allora, qui siamo già andati un pochino avanti e quindi abbiamo scelto di andare in palestra, allora io direi... Perché io sono una tipa decisa, io sono indecisa, esatto, sempre, bene, e poi a un giusto. Certo punto dico, ok, mi butto, basta, tenendo non ci penso più. Adesso poi il professor Cavetti... Abbiamo deciso di andare in palestra, va perfetto, bene. Cosa fare? Ma io valuterei innanzitutto due cose, la pulizia degli spogliatoi, sì, non tanto dell'atrio piuttosto che della sala macchina, proprio degli spogliatoi e dei servizi, prima bravo. Cosa che io devo chiedere di guardare e valutare con un minimo di attenzione, anche con un minimo di buon senso, perché certo. Ovvio che non è una clinica, ma è una palestra dove gira comunque parecchia gente, sì. E in secondo luogo l'organizzazione del lavoro. Nel senso che adesso ci sono palestre che hanno una grandissima immagine, però poi seguono individualmente la persona soltanto se questa sceglie sì, di essere un personal trainer. Certo. Allora, è una scelta più che legittima, ma con dei costi molto molto alti, e quindi uno deve fare un bilancio che tenga conto di questo. Ci sono ancora palestre impostate in modo tradizionale, come dove l'iscrizione comprende già il fatto che ci sia un istruttore che ci fa una scheda individuale e che ci segue. E ogni tanto ci butta l'occhio, questo mi piace. Esatto, e questo è un trucchetto importante per valutare correttamente il costo reale di ciò che andiamo a fare. E poi, terzo elemento, la qualifica dell'istruttore, nel senso che comunque un istruttore laureato in scienze motorie, quindi che ha fatto i 3 anni più la specialità, sì, sicuramente ci dà molte maggiori garanzie di un istruttore che è semplicemente iscritto oppure si è fermato alla laurea breve, piuttosto che di un istruttore che si è diplomato presso gli innumerevoli enti di promozione. Certo. Perché è evidente che la competenza di qualcuno che ha svolto un corso completo con 6 anni di lavoro e di attività è maggiore. Quindi questi sono i primi elementi per esatto. Muoversi. Dottor Confalonieri, grazie per essere stato con noi. Proveremo a scegliere, insomma, abbiamo qualche scusa in meno, no? Perché spesso dice non so che cosa fare, allora nel frattempo rimando. Qualche informazione in più può aiutare a scegliere. Dottor Confalonieri, a presto, buongiorno. Grazie a tutti, a risentirci. E noi andiamo a Udine, ci aspetta Gianni. Buongiorno Gianni, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, la seconda volta che chiamo, è sempre un piacere. Mi sembra che mi sento quasi come a casa, nel senso che avete costruito tutta la trasmissione su una storia che dove mi sento dentro. Mi spiego, sì. Partendo dalla slide indoor, io ero un ragazzino, diciamo così, di 21 anni, che le assicurazioni generali mandarono a Milano per poi diventare, insomma, per avere una carriera, tutto sommato, florida. Sbagliando per motivi di densità di popolazione una fermata in metropolitana, sì, sono sceso una fermata dopo, sì, e ho trovato appeso al muro della metropolitana l'annuncio di un corso per volontari del soccorso della Croce Rossa. Permettimi di salutare i volontari del soccorso. Ma certo, salutiamo i volontari in genere, in generale, di tutti i colori, certo, delle croci, certo, rossa, verde, certo. Rosa celeste. Certo, in sostanza anche perché ero lì da 3 mesi, forse nemmeno, a Milano, per cui non conoscevo quasi nessuno, ma era un desiderio che avevo già in latente, e ho fatto questo corso, ho partecipato, sono diventato volontario in Croce Rossa e mi si è aperto un mondo. Da lì la mia brillante carriera, pian piano, continuando con le attività, continuando con lo studio, si è deviata verso una carriera, tra virgolette, di professionista della sanità, per cui sono ho cominciato a lavorare poi in ospedale, al 118, eccetera, eccetera, e non potendo poi per motivi di età, fondamentalmente, ricominciare a studiare medicina. Come poi avrei voluto fare, mi sono laureato in scienze motorie, quindi vedi che perfetto. Si torna al discorso che avete appena fatto. Gianni, che bella storia! È una cosa di 6 mesi fa, e saluto, se mi permette, anche un professore, che è il professor Kautz di Udine, sì, che sì, probabilmente ascolta, perché so che al professor Kautz, per allora tanti saluti anche da parte nostra. Grazie Gianni, buon Natale. Grazie a voi. Ciao. Giuseppe, buongiorno da Monza. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anch'io sono un po' di casa, se permettete, vi ascolto sempre. Ma noi siamo felici. Grazie Giuseppe. Allora, io avevo una storia meno romantica, no, di questa dell'ascoltatore di prima. È più che altro un dubbio che mi cruccia un po' riguardo la scelta. Io ho due bambine, una che ha 11 anni e l'altra che ne ha 8, e la piccolina da un po' manifesta il terrore di scegliere, proprio ci chiede: aiutatemi a scegliere perché non so scegliere. Ma questo assolutamente proprio per tutto, sia per quanto riguarda il come vestirsi la mattina, piuttosto che ne so, il giocattolo da chiedere a Babbo Natale. Non vorrei che forse noi siamo stati un pochino troppo rigidi nella sua educazione, per cui probabilmente abbiamo sempre cercato di spiegarle perché certi giocattoli non si potevano chiedere, perché certe cose non era il momento, eccetera. E quindi non vorrei che in qualche modo siamo stati noi, no, un po' gli artefici di questo crollo del desiderio ogni volta. Magari è solo una fase di crescita, professor Cavedini. Beh, le insicurezze sono abbastanza tipiche di questa età, quindi non drammatizziamo. Non si è mai peraltro troppo in ritardo per provare ad avere un atteggiamento diverso nei confronti di questa bimba. Quindi provate a delegarle le piccole scelte e poi eventualmente verificate a posteriori, gratificandolo un pochino rispetto alle scelte che ha fatto, e vedete se un po' alla volta, col passare anche del tempo, la sua capacità di decidere piano piano diventa molto più autonoma. Professor Perna? Ma io sono d'accordo con il professor Cavedini. Aggiungerei una cosa importante, stavo ascoltando un po' tutti in questi minuti passati. Un elemento cruciale, facciamo l'esempio della palestra, per andare a fare dell'attività fisica, anche la motivazione che ci sta dietro. Se io, molto spesso persone si mettono a occuparsi del proprio corpo quando hanno per esempio degli esami del sangue sbagliati, quando il cardiologo trova qualche cosa, o addirittura per motivi positivi. Io sono affascinato da una nuova donna e improvvisamente ritengo utile mettere a posto il mio corpo. Quindi la motivazione è molto importante, spesso ce la dà l'ambiente esterno, molto spesso dobbiamo ritrovarla in noi stessi. Talvolta capita proprio che ognuno guardi se stesso e in qualche maniera dica: io non voglio più essere così, poco in forma, magari sovrappeso o altre cose, e quindi trovo il motore in me stesso per ritrovare una attività. È verissimo che è fondamentale partire nelle cose, quindi la decisione è sempre quella iniziale difficile, poi quando si entra nel gioco si va avanti in maniera continua. Pancia o testa, come prendete le vostre decisioni? 800 24 00 24, abbiamo Elsa, ci chiama da Roma. Buongiorno Elsa. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la sua trasmissione, che è sempre un piacere ascoltarla, anche perché lei è molto tranquilla, quindi... Grazie, grazie Elsa. Allora, le volevo dire, lei parlava delle decisioni, faccio questo, faccio quello, no? Allora, mia figlia si sposa, io divorziata già da diversi anni, decido comunque di vendere la casa e decido di vendere la casa. Nel frattempo avevo conosciuto una persona in palestra. Vede che la palestra. E non vedevo, come no, la palestra è stata galeotta, tengo a precisare che io ho 60 anni. E quindi quel ciao come stai, il cambio di telefoni, qualche volta abbiamo preso il caffè insieme, ma è finita lì. Vendo questa casa che era troppo grande per prenderne una un pochino più piccola e l'acquisto. Dopo una quindicina di giorni che avevo acquistato questa casa, questa persona mi chiama e mi dice: sai, voglio vendere la mia casa, so che tu cercavi, ti interessa. Dico: guarda, io la casa l'ho già acquistata. E quindi... Ma Elsa, venendo alla sua decisione... La mia decisione qual è stata? Che con la vendita della casa, sì, io ho incontrato questa persona perché lui sapeva che io volevo acquistare un'altra cosa. Sì. E quindi, diciamo, insomma... Comunque l'amore trionfa a casa vostra, Elsa, questo mi sembra di cogliere, no? Dalla vendita di una casa, una decisione impegnativa che poi ha portato i suoi frutti. Elsa, grazie per essere stato con noi. Noi andiamo a sentire i mercati, poi torniamo insieme. Continuiamo a parlare di scelte difficili, scelte che ci vengono più semplici, scelte dolorose. Alla fine anche le piccole scelte quotidiane ci mettono di fronte a noi stessi, come, che cosa vogliamo fare di noi, a dove vogliamo andare. Dove state andando voi? 800 24 00 24. Essere e benessere. C'è un confine sottilissimo. Passarlo o non passarlo è questione di un attimo, di una decisione che si prende o non si prende, della sua importanza. Ti rendi conto soltanto quando l'attimo è trascorso. Susanna Tamaro, tratto da Va dove ti porta il cuore. E torniamo a parlare di scelte, di decisioni. Il professor Perna ci ha lanciato questo stimolo: quanto ci aiuta il corpo a decidere? Pensare ci ha realmente aiutati poi a prendere la decisione? 800 24 00 24. Professor Cavedini, ma c'è un ABC della scelta? Un ascoltatore mi scrive: spesso nelle piccole scelte prendo sempre quelle sbagliate. È possibile cambiare rotta? Mi scrive Andrea. Ad esempio al supermercato, io quando vado dico: vado lì, in quella fila lì. Stai sicura? È matematica come in autostrada, che qualche cosa si interrompe, la signora non trova la scheda, è sbagliato il insomma, ecco, io lo so già, dovrei fare esattamente quella che sento di fare, almeno nelle piccole cose. Come mai? Allora Nicoletta, delle regole esatte e precise non ci sono, ci sono però dei buoni consigli che possono aiutare a prendere decisioni sicuramente più efficaci. Molto spesso le decisioni non sono efficaci perché non ci chiediamo bene qual è l'obiettivo di una decisione, cioè che cosa vogliamo decidere. Se il nostro obiettivo nel caso è velocizzare le cose, quindi uscire dal supermercato il prima possibile, allora dobbiamo fare tutto quello che porta in quella direzione. Se l'obiettivo è ad esempio scegliere con calma la marca migliore della pasta che dobbiamo comprare, allora poi non ci dobbiamo lamentare se questo comporta altri tipi di intoppi. Quindi decidere bene qual è l'obiettivo di una decisione è sicuramente il primo elemento, sì, ingrediente essenziale. La seconda cosa è: dobbiamo decidere anche in base a quello che ci fa star meglio o quello che ci torna più utile, quindi chiedersi realmente all'interno di una decisione dove vogliamo andare e perché vogliamo andare in quella decisione. Chiarirci le idee spesso è un passaggio necessario che non tutti fanno, eh? La gente prende delle decisioni ma non si chiede esattamente cosa vuole. Terzo e ultimo consiglio è: non vale per il supermercato, dove forse dobbiamo anche un po' di velocità da sostenere, prendersi il tempo per decidere, anche quando le decisioni sono prese di pancia, come dicevamo prima, però lasciare che le cose sedimentino e non agire d'impulso. Questo spesso evita a non commettere degli errori che tante volte poi si pagano dopo. Rossella da Verbania, buongiorno a lei, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, che piacere sentirla. Grazie Rossella. Dunque, chiedevo... La pigrizia, sì, che ritengo onestamente una malattia, per fortuna non per me, perché non mi ritengo una persona pigra, sì, anzi se posso consiglio a tutti, a tutte le persone che mi circondano e a cui voglio bene, di non essere pigri e di vincere la pigrizia quando questa ci assale, insomma. Sì. Chiedevo comunque agli esperti, insomma, quanto c'entra la pigrizia riguardo l'argomento di questa mattina. Professor Perna, la pigrizia rima contro le nostre decisioni o è solamente noi la vediamo come pigrizia, ma in realtà è un rimandare la decisione perché non siamo pronti o non abbiamo l'energia o la cosa non ci interessa a sufficienza? E tocchiamo un argomento delicato, perché la pigrizia si sovrappone con l'ozio, no? Oh. Se noi andiamo a vedere il concetto di ozio del passato, in qualche maniera della visione classica della vita, diventa un valore importante, un momento in cui uno in realtà utilizza questa apparente pigrizia per pensare o decidere. Se invece la vediamo secondo un'ottica moderna, diventa un ostacolo all'azione. Ricordiamoci che agire con le vecchie abitudini è molto più facile. Noi ne siamo il pilota automatico, non prendiamo decisioni consapevoli, ma lasciamo che sia la nostra abitudine, il nostro passato a prendere le decisioni, e quindi rischiamo in qualche maniera di sederci. La pigrizia è l'elemento opposto alla motivazione. È chiaro che io sono tanto più pigro quanto più non ho una motivazione. Certo. Io sono seduto sul divano e il divano scotta, mi alzo, no? Se il divano è molto comodo, dovrebbero farlo, dovrebbero inventarlo, un divano che dopo un po' brucia, che così uno si alza. Antisedentarietà. Allora, i miei ascoltatori, intanto volevo chiedere, ma recuperando, cioè andando un pochino indietro nel tempo, ma non tantissimo, facciamo un bilancio, vediamo quali sono state le scelte più fortunate fortunate, le decisioni quelle che abbiamo preso di petto, di pancia, di istinto, o quelle su cui ci siamo fermati a ragionare, abbiamo chiesto aiuto, abbiamo fatto l'elenco, come insegnano alcuni esperti, i siti sono pieni, no, di consigli su come prendere le decisioni, i pro e contro, il bilancio, eccetera. Come siete? 800 24 00 24. Ma c'è una scelta, prima parlavamo di palestra, che dovremmo fare, alcune persone dovrebbero fare. Noi abbiamo iniziato la nostra trasmissione con un film che in realtà era il doppio film, Sliding Doors, ma c'è anche un altro film che parla di una doppia scelta. È un film di Alain Resnais, Smoking No Smoking, è un film in cui proprio le due vicende prendono vita dalla scelta del protagonista di accendersi o non accendersi una sigaretta. Peccato che per Aiden sia un problema, ma bisogna accettare le persone come sono. Che abbia voluto scaricarmi per una sciocchezza come il fumo. Guarda che fumare non è una sciocchezza, è un vizio sporco e disgustoso e ti sta ammazzando. Grazie, mento livido. Davvero, Carrie, dà fastidio a tutte, lo sopportiamo perché ti vogliamo bene. Adesso hai un motivo per smettere fumo. Non mi piace che vi mettiate contro di me. Chi si mette contro di te? Fumare fa parte di come sono. Se smetterò, sarà perché l'avrò deciso io e non perché un tipo carino mi ha detto di farlo. Beh, se è un tipo carino che ci dice di smettere, potrebbe anche orientare un po' le nostre scelte. In linea con noi abbiamo il dottor Roberto Boffi. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Nicoletta. Responsabile del Centro Antifumo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e naturalmente pneumologo. Dottor Boffi, con lei abbiamo parlato tante volte di smettere, di come si fa a prendere questa decisione. A volte la rimandiamo, ad esempio perché abbiamo paura di non riuscirci, o molte ragazzine, leggevo, hanno paura di smettere di fumare proprio perché hanno poi paura di ingrassare, allora decidono di affidarsi alla sigaretta. Dottor Boffi. Ma sì, tanto grazie dell'invito, una puntata molto stimolante, no? La scelta di fronte a uno stile di vita così importante, che può condizionare così pesantemente la quantità, ma soprattutto la qualità della nostra vita, è un argomento che mi tocca ovviamente in maniera molto diretta. Prima cosa che mi viene da dire è che anche studi recenti, anche di Benowitz, ad esempio su New England, ricordano che ormai è ampiamente dimostrato, per quanto riguarda la dipendenza a tabacco, che l'effetto motivazionale e quello gratificante sono dovuti alla dipendenza a nicotina, che al pari delle altre droghe è capace di aumentare la liberazione di una sostanza che si chiama dopamina nel cervello, e che quindi contribuisce al mantenimento del fumo di tabacco tramite l'instaurarsi di una tolleranza e di uno stato di astinenza latente. Queste cose non sono un vizio, quindi neanche nel film che avete trasmesso adesso si parlava di vizio. Invece mi piace che passi il concetto che la dipendenza a nicotina non è una dipendenza. Non è un vizio, è una dipendenza. Assolutamente, quindi va curata in quanto tale, magari da soli, se ce la facciamo da soli, ecco, oppure chiedendo aiuto agli altri. Ed è qua che la voglio, prima di salutarla, ci facciamo aiutare, proviamo da soli, ci sono delle ricerche che dicono che qual è la maggiore possibilità di successo, quale delle due strade? Ci sono delle fior di terapie farmacologiche e psicologiche. Intanto una cosa che va detta è che in Italia non si fa abbastanza per aiutare i fumatori, perché sono 11 milioni e invece gli ex fumatori sono 6,5 milioni, quindi poco più della metà. All'estero è il doppio, cioè gli ex fumatori sono superiori ai fumatori, quindi vuol dire che non siamo abbastanza capaci di aiutarli. Solo l'1% degli ex fumatori l'ha fatto coi farmaci e meno del 5% si è rivolto ai centri antifumo, e questo spiega che infatti sono dobbiamo fare milioni. Delle scelte dobbiamo sicuramente fare a delle monte, scelte, però avere anche l'intelligenza, quindi una scelta di testa oltre che di cuore, di chiedere aiuto a chi ne sa più di noi, in primis il medico di famiglia, e se non ce la facciamo con lui, magari anche coi centri antifumo. Si dice o non si dice agli amici "ho smesso di fumare"? Ma l'unione fa la forza, questo lo diciamo sempre anche ai ragazzi. È una scelta prima di tutto individuale, è una frase che ricordiamo ai ragazzi, una frase di un loro ex idolo, Jim Morrison, un cantante, che diceva: sii sempre te stesso perché un giorno potrai dire di essere l'unico. Però chiedere aiuto agli altri, coinvolgere gli altri, fare delle piccole promesse, porsi dei piccoli paletti che possono aiutarci magari nei momenti di debolezza e di fragilità, può essere aiutare. Sicuramente utile. Dottor Boffi, grazie per essere stato con noi. Grazie a proposito a di altri, noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Avete delegato ad altri vostre decisioni e come è andata? Essere e benessere. Siamo qui 800 24 00 24. Teresa ci chiama da Roma. Scegliamo qualcosa che ci faccia stare bene o è difficile? Teresa, buongiorno. Buongiorno. Stavo ascoltando in macchina la trasmissione. Io ho avuto un'esperienza all'età di 19 anni, fino al liceo. Un piccolo preambolo: io ho perso papà che avevo 16 anni, per cui diciamo mamma con su di me logicamente aveva una certa situazione psicologica. Finisco il liceo e un amico di mio padre, tutto felice, dice: ah, ti ho trovato lavoro in ufficio, vieni, è un'occasione unica. Avevo tutti veramente contenti di questo lavoro e io proprio la mia pancia ha cominciato a dire di no. E tutte le mattine mi alzavo e davo di stomaco. Dopo 3 mesi di questa storia ho fatto domanda per entrare in ospedale a fare il corso di fisioterapia. Appena mi hanno chiamata, che ero stata sorpresa, mi sono licenziata. È stato il momento più bello. Perché ci vuole. Lei ha saputo ascoltare i segnali del suo corpo, professor Perna, come lei diceva, e ha avuto anche coraggio. Teresa ha avuto coraggio a proposito di decisioni, perché, professore, riconoscere dove ci porta non il cuore ma anche il nostro corpo magari può essere più semplice, ma poi saperlo ascoltare, mettere in pratica quello che abbiamo capito, con un lavoro già avviato, sicuro, reinventarci, caspita. Brava Teresa, adesso sta bene e la sua vita è cambiata. Professore. Ma ha detto una cosa, abbiamo fatto un ragionamento molto interessante, perché spesso quando dobbiamo fare delle scelte quello che ci blocca è la paura di cambiare, la paura di andare contro le nostre abitudini, no, la paura dell'ignoto, è lì dove il coraggio diventa centrale. Probabilmente le decisioni più importanti della nostra vita nascono dal coraggio e dalla capacità di ascoltare il nostro corpo. È fondamentale sicuramente riflettere, ma devo dire, questa è una mia esperienza personale, ogni volta che ho pensato ho sbagliato. Quando ho ascoltato il mio corpo e ho riflettuto sul mio corpo, allora ho avuto decisioni importanti. Io stesso sono reduce qualche anno fa da un cambiamento lavorativo importante che alla luce della logica era molto rischioso, alla luce dello stomaco è stata una delle scelte più importanti. E come si fa a sentire questa vocina dentro di noi o questi segnali che il corpo ci manda? A volte sono segnali proprio che possiamo chiari, no? Teresa diceva: io tutte le mattine vomitavo. Ecco, e c'è chi magari fa finta di niente, inizia a cercare, no? Con diete, esami, eccetera. C'è chi dopo aver appurato, perché anche questi sintomi vanno poi indagati, che invece è la psiche che ti dice qualche cosa. Ma non siamo tutti capaci di ascoltare i segnali che il corpo ci manda. Ma bisogna ascoltarli, bisogna tendere le orecchie, questo perché il corpo parla sempre e ricordiamoci sempre, esiste un qualche cosa chiamato marcatore somatico, in cui esiste una teoria importante dietro, il dottor Cavedini è un esperto nel campo, in cui sostanzialmente il nostro corpo in qualche maniera impara da tutte le esperienze passate ciò che ci fa bene e ciò che non ci fa bene, e quando incontriamo qualche cosa che nella nostra esperienza passata ci ha fatto male, ci dice: stai attento, che in quella direzione potresti farti male. Il corpo si manifesta in ognuno di noi in varie maniere, c'è lo stomaco piuttosto che il cuore, piuttosto che anche quella sensazione di malessere fisico che ci dice: quel qualcosa potrebbe non farci va bene. Male. Allora, mi piacerebbe avere proprio un caso su cui voi potete, il professor Perna e il professor Cavedini, darci delle indicazioni pratiche, prova anche delle domande da fare ai nostri ascoltatori, magari che sono indecisi sulla decisione da prendere. Leonardo, buongiorno da Treviso. Sì, buongiorno. Buongiorno Leonardo. Lei ascolta il suo corpo quando deve prendere una decisione, oppure chiude gli occhi, si butta, oppure si tira indietro? Vorrei ascoltare più il mio corpo, diciamo. Secondo me sto troppo a pensare a quello che devo fare e non passo subito all'azione. Eh sì, perché poi insomma poi le situazioni cambiano, eh? Siamo chiamati a decidere in quel momento lì, perché poi lo scenario cambia. Leonardo, che decisione sta prendendo lei? O le ha già prese? Che... No, sto pensando. E allora? La decisione è questa, sono studente universitario già da parecchi anni e fuori corso e sto pensando di lasciare per fare un corso da pizzaiolo, sì, e aprire una pizzeria possibilmente in Giappone. In Giappone? Poi mi sentirà lo stesso? Leonardo? Sì, sì, beh. Allora, se lei mi sente, io chiederei, allora, professor Cavedini, abbiamo pochi minuti per aiutare Leonardo. Leonardo è fuori corso, di quanti anni, Leonardo? 3 almeno. 3 anni almeno. Allora dice, mollo, faccio il pizzaiolo e vado in Giappone. Come fa a capire se il suo, che cosa gli dice il suo corpo? Se Leonardo venisse da lei, come lo aiuterebbe? Innanzitutto mi sembra che sia importante scomporre un po' i vari elementi della decisione, no? Nel senso, decidere di andare avanti a studiare o addirittura un salto così carpiato nella direzione del Giappone può diventare una scelta più complicata. Cominciamo a valutare l'opportunità di smettere di studiare o di andare avanti, quindi prendiamo delle decisioni più elementari possibili e poi procediamo cercando di dare sempre più direzione ai nostri desideri. Il secondo consiglio, la seconda indicazione che darei a lui è di decidere davvero lui e di non delegare le scelte alle circostanze, al fatto che fuori corso, alle aspettative di altro tipo, ma prendersi la responsabilità di una decisione senza delegare ad altro le scelte che uno fa e che uno effettua. Io volevo, prima di salutarvi, a proposito di scelte, sottoporvi un po' quello che è l'invito di Greenpeace. Greenpeace ci dice di diffondere il decalogo per un Natale sostenibile e dà dei consigli per festeggiarlo rispettando il pianeta. Questo a proposito di Natale, stiamo tutti preparandoci e sul nostro sito troverete il rimando con i consigli di Greenpeace nelle vostre scelte. Scegliete anche il rispetto per l'ambiente e quindi l'albero di Natale, le luci, ci sono dei consigli per il cenone, per il menù, per i regali, lo troverete sul nostro sito, un decalogo importante che voi, mi farebbe piacere voi leggeste. Intanto, professor Perna, abbiamo proprio 30 secondi, abbiamo preso una decisione e abbiamo capito che abbiamo preso quella sbagliata, il rimpianto, il rimorso, professore, vogliamo liberarcene. Che si fa? 10 secondi. Si può tornare indietro molto spesso, quindi bisogna prendere un'altra decisione coraggiosa e ammettere di aver sbagliato. Questa è la cosa importante, perché se noi trasciniamo le decisioni a lungo, aumentiamo le perdite e il nostro disagio. Grazie al professor Perna, al professor Cavedini, a voi che ci avete seguito. Essere e benessere.